Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, torniamo a Ravello con la splendida musica di Mozart, perché questa sera, proprio dedicata al grandissimo compositore, al più grande di tutti i tempi, salisburghese, Ravello omaggia Wolfgang Amadeus Mozart con una maratona Mozart al pianoforte Gary Goldschneider. Dalle 18 alle 24 a Villa Rufolo si ascolterà solo lui, solo Amadeus. Andiamo quindi a Ravello, torniamo e bentornato a Stefano Valanzuolo. Cosa accade? Buongiorno a voi, ben trovati. Accade che, appunto, come dicevi, dalle 18 fino alle 24 si ascolteranno tutte le sonate di Mozart, sono 18 le sonate per pianoforte, in un'unica serata, appunto, in un'unica soluzione, con piccole pause per dare possibilità al pianista, che è un unico pianista, appunto, che è Gary Goldschneider, pianista americano, dare la possibilità appunto a lui di rilassarsi minimamente e anche al pubblico di poter godere fino in fondo il fascino di queste sonate, il fascino di questa, di questo cimento, che è una cosa non proprio usuale, ecco. L'idea di fare tutte le sonate insieme è un po' folle, in omaggio anche al tema dell'anno, di questo nostro festival, che è appunto la follia. 18 sonate, ma la cosa bella è che Goldschneider è già arrivato lì a Ravello, oppure sta per arrivare, perché io vedo che è un appassionato di filosofia, di medicina, di parapsicologia, è uno scrittore, un astrologo, insomma non è che fa solo il pianista, fa tutto. No, Goldschneider è un personaggio singolare, sì, è già qui a Ravello e ha provato anche brevemente, devo dire non si è neanche stancato più di tanto, lui ha un approccio molto rilassato al pianoforte e al concerto, direi più in generale, per cui è molto tranquillo e sì, è un personaggio, dicevo, singolare, uno che si occupa di tutte queste cose, di astrologia soprattutto, ci ha tenuto moltissimo a farmi sapere rispetto alla mia data di nascita, quali fossero le mie attitudini, le mie propensioni, eccetera, ma lo fa con tutti. E poi ha questa passione, che passione non è, perché è una professione ovviamente, questa della pianoforte e della musica, per cui ha già in altre occasioni lavorato a queste maratone, a queste non stop. E quella Mozart diventa addirittura quasi una fatica di piccolo conto, se si tiene conto dell'altra maratona che ha fatto, cioè che quella Beethoven, perché Mozart dura 6 ore circa, le 32 sonate di Beethoven invece lo hanno impegnato per 12 ore in altre occasioni, ma lui si diverte così e il pubblico spero si diverta altrettanto, insomma. Quindi dalle 18 alle 24 voi che cosa fate? Fate due sonate, poi un piccolo intervallo, come si alterna? No, soprattutto si mangerà, perché dalle 18 alle 24 si digiuna. Colazione al sacco a questo punto, ci si porta i panini in villa, no, a parte gli scherzi ci sono delle pause naturalmente, no, sono 4 concerti, sono diciamo 4 recital di circa 1 ora e 15 ognuno, con delle pause di 20 minuti tra l'uno e l'altro, abbiamo scelto di proporre le sonate in ordine cronologico, perché ha un senso questo, cioè non è un senso soltanto formale, ma anche ha un senso musicale, perché vedere anche l'evoluzione di uno stile, di un linguaggio attraverso i 15 anni in cui Mozart compone queste queste sonate, cioè tra il 1774 e il 1789, queste sono le due datazioni estreme delle sonate, diciamo come evolve il linguaggio in questo periodo a seconda delle suggestioni cui Mozart stesso si presta, è una cosa particolarmente interessante. Quindi quattro concerti, quattro resta di un'ora e un quarto, al pubblico diamo la possibilità di assistere o al singolo concerto con un biglietto da singolo concerto, oppure di fare naturalmente in maniera molto conveniente sotto il profilo economico un unico biglietto per tutta quanta la maratona, che dà anche la possibilità di entrare e uscire naturalmente nelle pause dalla Villa Rufolo dove si svolge il tutto, in maniera tale da poter avere anche questo momento di relax. Ma è chiaro che noi speriamo che in tanti assistano all'intera maratona, perché è lì che è il bello di questa proposta. Ma allora Ravello insomma si sta specializzando un po' in serate particolari, perché avete fatto la notte di San Lorenzo, com'è andata poi? Noi abbiamo magnificamente, con il concerto all'alba, alle 4:30 per vedere l'alba, giusto? Esatto, sì. Adesso fate la maratona di Mozart, insomma chi va in vacanza a Ravello lo sottoponete a un notevole stress culturale, a noi piace sottolineare questa cosa. Beh, ma è uno stress che credo sia gratificante per tutti. Domani ne facciamo un'altra, domani facciamo una serata in cui mettiamo insieme musica e gastronomia, per cui c'è un DJ che si chiama Don Pasta, che è DJ musicista, ma è cuoco soprattutto, che insieme a un altro musicista che si chiama Daniele Di Bonaventura, uno splendido bandoneonista, propongono un concerto barra cena, una cosa un po' strana e un po' folle anche questa, perché diciamo che al di là di quella che è la proposta rigorosa, canonica, che un festival deve avere, un festival internazionale, e cui Ravello assolve in maniera direi egregia attraverso spettacoli come quelli che abbiamo avuto di Malkovich, di Pappano con Santa Cecilia, Autoughi, eccetera, eccetera, dicevo, accanto a questa anche qualche idea un po' più originale che fa festival e che diventa accattivante nei confronti di un pubblico che in qualche maniera d'estate è disorientato da una proposta opulenta e che cerca non a caso cose un po' più specifiche, un po' più divertenti, un po' più interessanti. Quindi Stefano, stasera dalle 18 alle 24 a Villa Rufolo Gary Goldschneider eseguirà 18 sonate di Mozart nell'ambito di una maratona. Hai detto te, è articolata in più a più riprese per dar il tempo a Goldschneider di riposarsi, ma anche un attimo agli spettatori di riposare anche le orecchie, no? Tante note quelle di Mozart, bellissime ma tantissime. E invece domani mi stavi dicendo a che ora e l'appuntamento qual è? Domani l'appuntamento alle 21:45 con Don Pasta, si chiama Food Sound System la serata, e Don Pasta, che è appunto questa originale figura di cuoco, DJ, musicista, è con Daniele Di Bonaventura al bandoneon per una serata direi sospesa tra musica e gastronomia, anche questa un po' a sorpresa, scopriremo insieme domani cosa ci porti questo duo così strano e così originale. Per quanto riguarda invece stasera, sappiamo cosa ci porta Gary Goldschneider, perché se c'è veramente un autore che si può ascoltare per 6 ore di seguito senza stanchezza, senza momenti di pausa e sempre invece con una tensione direi quasi affettuosa nei confronti del repertorio, beh, quell'autore è Mozart. Quindi la scelta di fare l'integrale delle sonate di Mozart in una sera è sicuramente originale, può sembrare anche un po' faticosa, ma secondo me poi diventa un'esperienza assai importante, assai bella per lo spirito, almeno per chiunque ami la musica. Grazie Stefano e tutti a Ravello per la maratona di Mozart questa sera. Lasciamo Mozart, lasciamo Ravello per andare al Festival dei Sensi a Martina Franca. Festival dei Sensi, seconda edizione, e una kermesse che dura 3 giorni, tantissimi gli appuntamenti tra masserie e dimore storiche della Valle d'Itria. E allora, Milly Semeraro, l'ideatrice del Festival dei Sensi, quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono la rivisitazione della cassa armonica, un gioco bellissimo, molto noto a tutti coloro che hanno visitato il sud e hanno avuto la fortuna di assistere a una festa patronale, di ammirare quindi luminarie, di ascoltare le bande e di godere un po' di questo oggetto di festa. Una specie di giostra luminosa che di solito si posiziona nelle piazze per farci suonare la banda. E noi abbiamo chiesto a 2 bravissimi architetti di rivisitare questo bellissimo giocattolo e ne verrà allestito un prototipo di questa prima cassa armonica mai realizzata, moderna, in Piazza dell'Immacolata, Martina Franca. E questa è la novità, diciamo, sul piano della rivisitazione delle tradizioni locali. Poi ci sono invece tutte le proposte delle nostre, diciamo, lezioni nelle dimore storiche, nelle masserie, negli oratori più curiosi e sconosciuti, che sono per esempio Ruggero Pierantoni, che subito dopo l'inaugurazione parlerà del moto dei fluidi liberi, oppure Semir Zecchi sui capolavori incompiuti, o Giorello su sensi, lussuria ed evoluzione, questo solo per parlare della giornata di oggi. E poi invece vedo che insomma ci sono 3 giorni quindi di full immersion. Sì, sì, sono 3 giornate. Tutti a Taranto, praticamente, tutti a Taranto. No, questo è un festival diffuso, ha sede in una valle molto bella che si chiama Valle d'Itria, è la Valle dei Trulli per intenderci, e quindi si parlava prima di Martina Franca perché quest'anno inaugureremo a Martina Franca, ma in realtà i comuni coinvolti sono 3 e sono appunto, oltre a Martina Franca, Locrotondo e Cisternino. E sì, poi ci sono anche, c'è un bellissimo calendario di animazione, di attività per i bambini, ci sono delle visite naturalistiche guidate, ci sono delle mostre e ancora altre lezioni di grande interesse e divertimento. Michele Emmer parlerà delle bolle di sapone, Franco Farinelli del primato della vista. E poi ci sarà insomma un festival multimediale che vuole unire tutti e 5 sensi, quindi non c'è solo la parola, non c'è solo l'occhio, c'è l'udito, c'è l'olfatto, c'è tutto. Sì. Giusto? Allora, tutti quanti confluiamo a Taranto, Valle d'Itria, più precisamente abbiamo sentito a Martina Franca e dintorni, per il Festival dei Sensi che parte questa sera e si prolunga fino a domenica. Questa sera a che ora, Milly? Inauguriamo alle 19 in Piazza dell'Immacolata. In Piazza dell'Immacolata, Martina Franca, provincia di Taranto. Grazie, Milly. Prego, buongiorno. Buongiorno. Summertime. Questo coro introduciamo quello che è il Festival dei Lupi Mannari. Sì, andiamo a Rieti e in provincia di Rieti, in piena Sabina, e dove questa sera partirà uno spettacolo, Accade a Farfa, e questo è il coro dello spettacolo. Ci sarà questo festival che coinvolge varie parti del mondo dello spettacolo, dal concerto al teatro. Andrea Maurizio, è così? Sì, salve. Sì, è un festival di teatro, musica e poesia che facciamo in vari comuni della Bassa Sabina, qui in provincia di Rieti. E il festival è iniziato a fine luglio e finirà appunto a fine agosto. È iniziato a Poggio Mesteto, Montopoli, e adesso questa sera sarà a Montebuono, e domani saremo a Sarisano, poi proseguiremo ancora a Montebuono e finirà il festival l'ultimo fine settimana di agosto a Bocchignano, che è una frazione medievale nel comune di Montopoli Sabina. E il festival si chiama il Festival dei Lupi Mannari perché appunto è in luoghi un po' impervi, in luoghi diciamo tipici o caratteristici o comunque non dove di solito non si fanno spettacoli. Questo è il filo conduttore della nostra attività, portare spettacoli validi da un punto di vista artistico e culturale in luoghi dove non ci sono mai stati, insomma, per cercare anche di valorizzare questi posti e di far conoscere il nostro territorio. Io vedo anche trekking a cavallo, al Monte San Benedetto sabato 28 agosto, insomma, altro che luoghi impervi. Ma la Sabina era conosciuta per il ratto, adesso per fare un ratto bisogna essere lupi mannari, mettiamola così, no? Sì, no, vabbè, la Sabina è una zona a nord di Roma che è, diciamo, è rimasta talmente ferma negli anni che alla fine del giro si è ritrovata avanti, perché è una zona incontaminata, dove la natura è ancora intatta, dove ci sono tanti piccoli borghi medievali appunto rimasti così, quasi così come erano, insomma, e cerchiamo di conservare questa zona ospitando arte. Questa sera a Montebuono ci sarà lo spettacolo Accadde a Farfa di Elisabetta De Palo con il coro Zenzerei. E l'abbiamo sentito, ma ne sentiamo un altro pezzettino. Durante una guerra tra saraceni e cristiani, in un passato solo apparentemente lontano, due donne si incontrano in terra sabina. Una è Elena, girovaga, ciarlatana, un'altra è una ragazza incinta che ha bisogno di raggiungere suo marito. Accadde a Farfa, Elisabetta De Palo, attrice di questo spettacolo, uno spettacolo al femminile. Esatto. Questo spettacolo inizialmente doveva essere un monologo. Io chiesi a Dimitri Patrizzi, che è l'autore, di scrivermi una storia ambientata in Sabina, che parlasse della storia della Sabina, dove ci fosse anche un riferimento alle donne in guerra soprattutto. Quindi lui mi ha scritto un bellissimo testo, che poi però io gli ho fatto modificare perché ho fatto un incontro veramente importante, che è stato quello col coro Zenzerei. Ho incontrato questo coro che opera in Sabina da vari anni, si occupa di musica etnica, e dopo averle sentite ho avuto un'emozione tale che ho capito che il mio spettacolo si sarebbe senz'altro arricchito con la loro presenza, con la loro forza, con la loro potenza, e quindi è stato introdotto il grande personaggio del coro, che in questo caso è coro alla maniera greca, quindi di commento alle azioni, ma anche coro proprio di canto. Infatti loro cantano questi loro canti che abbiamo lasciato nelle lingue originali proprio per sottolineare l'universalità di questi argomenti, dell'argomento della guerra e dei problemi femminili. Il carretto della ciarlatana sembra il mezzo di trasporto più adatto alla ragazza incinta, esatto, a cui mancano pochi giorni al parto. Quindi queste due donne sono da una parte lontane, mi sembra, sia come età sia come situazione sentimentale. Sembrano lontane, sono inizialmente appunto la giovane è una nobile comunque, diciamo, di uno stato, di un ceto abbastanza alto, e la ciarlatana sembra proprio una poveraccia che vive di espedienti. Veremo poi a scoprire tramite vari passaggi che in realtà la ciarlatana ha un passato molto importante. È stata una levatrice molto ricercata perché aveva il dono di far nascere anche i bambini con i parti più difficili e riuscirà proprio a far nascere il bambino di questa donna profuga che non vuole venire al mondo perché ha paura della guerra. Quindi scopriremo poi alla fine un'altra affinità molto importante, che entrambe, queste due donne, hanno una cosa in comune, cioè sono state spose di saraceni. Noi stiamo parlando appunto di una guerra tra cristiani e saraceni, ma come sempre accade, non tutti i cristiani erano brave persone e non tutti i saraceni erano malvagi. E quindi, proprio per capire, per fare anche un discorso sull'integrazione fra popoli così diversi, e che non sempre il diavolo è quello che si pensa, insomma. Allora, Andrea Maurizi, poi vedendo quello che succede, a parte questo accadde a Farfa di Elisabetta Palo con il coro Zenzerei, abbiamo anche incontro sulla poesia estemporanea a Salisano, e spettacolo di improvvisazione in ottava rima, cioè quindi si improvvisano rime, e insomma, e domenica il Bosco degli Spiriti, il teatro di ragazzi. Poi si chiude il prossimo weekend con, abbiamo sentito, una lunga maratona. Allora, tutti quanti in Sabina, tutti quanti al Festival dei Lupi Mannari. L'appuntamento è questa sera al Centro Storico a Cadde a Farfa di Montebuono, e domani viene replicato anche a Salisano. Grazie ad Andrea e grazie ad Elisabetta. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. E adesso invece cambiamo proprio genere, sì, perché andiamo per strada, perché andiamo proprio a Ferrara, dove anche quest'anno si realizza il Ferrara Buskers Festival, cioè il festival degli artisti di strada. Stefano Bottoni, cosa succederà a Ferrara a partire da oggi fino al 29 agosto, 23esimo anno? Buon pomeriggio, e siamo già più di voce, quindi c'è questo aspetto, come dire, della fatica è di ben altro, però stiamo lavorando per un festival che è un po' il più vecchio, il più antico, se per antico vuol dire 23 anni. E, un piccolo distinguo, e vi ringrazio per la collaborazione, la disponibilità, è il più grande festival di musicisti di strada, è un distinguo che ci teniamo per... Assolutamente, noi accettiamo... Per Cireteria è una forma di distinguo, nel senso che l'artista di strada, che comunque fa parte della filosofia di questo festival, appartiene anche ai fringe, agli accreditati, suddivisi su diverse tipologie. E cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che il pubblico entri in contatto con dei gruppi totalmente sconosciuti. Che sembra una battuta, come dire, un po' particolare. Sono gruppi che a malapena conosciamo noi come organizzatori, che però, inserito in un contesto di, come dire, di fascino e di distinguo tecnico, sono quelli che poi ci portano migliaia di persone alla sera, nella giornata del festival. Allora, vediamo questi gruppi un po', no? Sì. C'è Mallet Duo, la coppia polacca. Poi, Frederik Conradsen, che è un one man act danese, che però suona il reggae, è giusto? Tipo... Sì, sono stati fatti gli inviti sulle diverse tipologie musicali, e sono quelli che sono proprio nei centri storici di Copenaghen, di Budapest, di Cracovia, di San Francisco, quindi sono proprio quelli che hanno proprio la strada come palcoscenico. Infatti, perché poi leggo che c'è Gadio, personaggi sulle spiagge di Barcellona, no? Che arrivano con un mix effervescente di musica tradizionale gitana e gypsy swing. Quindi già mi incuriosisce molto. Poi c'è il gruppo di musica klezmer praghese, i Trombenik, canti in yiddish e in inglese. Poi i Barlavento, che arrivano addirittura da Bahia. A Salvador. Poi i Lao Cuyate, che è Africa occidentale. Esatto. The Lucky Ones, trio inglese, che è musica, teatro e commedia. Beh, gli inglesi, insomma, se non sanno fare loro teatro, no? Poi abbiamo Robert Pfeiffer e Peter Kelly, che invece... Irlanda. Mansella Quartet, formazione instabile. Band italiana? Ah, ce n'è una italiana, meno male, ci stavo cominciando a preoccupare. Poi Branko Gajloc e Stakavac Orchestar, questo è elettrica, eclettica internazionale, musica gypsy, pop, blues. Insomma, veramente noi stiamo facendo proprio un piccolo riassunto per capire. È un giro del mondo. È un giro del mondo. Quindi si viene a Ferrara, si mangia bene, beh, da voi, si mangia sempre bene. Si va in giro con cibo e bevande per ascoltare musica da tutto il mondo. Basta cambiare angolo che si cambia completamente atmosfera. Infatti questo è il gioco del festival, nel senso che il festival non ha fini competitivi, non voglio che sia una gara, non lo sarà, è nato così, per cui penso che sia anche l'aspetto piacevole del festival, che quindi togliamo tutta la parte agonistica, e sono gruppi che vengono per suonare nelle stesse strade, quindi facendo lo stesso show che fanno a San Francisco lo portano nelle strade di Ferrara, punto, né più né meno. Beh, insomma, mi sembra che è un punto notevole. Stefano Bottoni, grazie, direttore artistico del Ferrara Buskers Festival. Mi correggo, il Festival dei Musicisti di Strada. Salutiamo Ferrara, salutiamo questa musica che risuonerà nella cittadina alla 23esima edizione. E io saluto e ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it oppure dare una scorsa al nostro sito www.radio24.it per vedere quello che succede in serata e nel weekend. Da parte mia, buon weekend a tutti.